Nel parlare. Vieni. Divina volontà. A parlare in me. Gesù. Metti sulle mie labbra la tua parola e fa che parli sempre con la tua lingua e che, insieme a te, ripeta solo e sempre le verità divine che il Padre vuole comunicare ai suoi figli. Confronta. Le ore della passione di N. S. G. C. 15 ora. Nei patimenti. Gesù mio. Tutto per amore tuo. Questi dolori siano tanti atti di lode. Di onore. Di omaggio che ti offro, questi dolori siano tante voci che ti glorifichino e tanti attestati che dicano che ti amo. Confronta. Volume 2, 21, 08. 1899. Soffro nella tua volontà. Mio Gesù. Perché ogni mia pena sia una vita che do a te per impetrare anime. Il mio patire baci il tuo. E così intendo. O mio Gesù. Darti la soddisfazione delle stesse tue pene. Confronta. Le ore della passione. Ora. Gesù. Ti offro la mia sofferenza unita a quella tua sofferenza che avesti nell'orto quando sudasti sangue per i miei peccati. La mia umanità sia la croce e la mia anima unita con la tua volontà sia il crocifisso vivente che stia continuamente innanzi a te per darti la soddisfazione che tu stesso desti all'Eterno Padre. O Gesù. Dolce mia vita. Le mie preghiere e le mie pene si innalzino sempre verso il cielo per far piovere su tutti la luce della grazia e assorbire in me la tua stessa vita. Per qualcuno che soffre, Gesù, stando nel tuo volere imprimo il mio ti amo nel tuo ti amo ed unisco il tuo patire al patire di N. N. Perché tu trovi in lui il tuo stesso patire. Gesù. Ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a soffrire nel mio soffrire. E la mia anima unita con la tua volontà. Sia il crocifisso vivente immolato per la gloria del Padre. E da te mi rivolgo. Madre mia addolorata. Metto nel tuo cuore trafitto tutte le mie pene meno. E tu sai come mi trafiggono il cuore. Meno. Fammi da mamma e versa nel mio cuore il balsamo dei tuoi dolori, affinché abbia la tua stessa sorte di servirmi delle mie pene come monetine per conquistare il regno della divina volontà. CFR. La Vergine Maria nel regno della divina volontà meno. 23° giorno. Consacrazione alla divina volontà. O volontà divina e adorabile. Eccomi, davanti all'immensità della tua luce, perché la tua eterna bontà mi apra le porte, mi faccia entrare in essa per formare la mia vita tutta in te, volontà divina. Perciò, dinanzi alla tua luce prostrata, io, la più piccola fra tutte le creature, vengo. O adorabile volontà, nella piccola schiera dei piccoli figli del tuo Fiat Supremo, prostrata nel mio nulla, supplico e scongiuro la tua luce interminabile che voglia investirmi ed eclissare tutto ciò che non ti appartiene, in modo che non faccia altro che guardare, comprendere e vivere in te, volontà divina. Essa sarà la mia vita, il centro della mia intelligenza, la rapitrice del mio cuore e di tutto l'essere mio. In questo cuore non avrà più vita il volere umano. Lo bandirò per sempre e formerò il nuovo Eden di pace, di felicità e di amore. Con essa sarò sempre felice. Avrò una forza unica. Una santità che tutto santifica e tutto porta a Dio. Qui prostrata invoco l'aiuto della Trinità Sacrosanta che mi ammetta a vivere nel chiostro della Divina Volontà, affinché ritorni in me l'ordine primiero della creazione, così come fu creata la creatura. Mamma Celeste, sovrana regina del Fiat Divino, prendimi per mano e chiudimi nella luce del volere divino. Tu sarai la mia guida, la mia tenera madre e mi insegnerai a vivere e a mantenermi nell'ordine e nei recinti della divina volontà. Sovrana Celeste, al tuo cuore affido tutto l'essere mio. Sarò piccino, piccolo figlio della divina volontà. Tu mi farai scuola di volontà divina ed io starò attento ad ascoltarti. Stenderai il tuo manto azzurro su di me, perché il serpe infernale non ardisca penetrare in questo sacro Eden per allettarmi e farmi cadere nel labirinto dell'umano volere. Cuore del mio sommo bene, Gesù, tu mi darai le tue fiamme perché mi brucino, mi consumino e mi alimentino, per formare in me la vita del supremo volere. San Giuseppe, tu sarai il mio protettore, il custode del mio cuore e terrai le chiavi del mio volere nelle tue mani. Custodirai il mio cuore con gelosia e non me lo darai mai più, perché io sia sicuro di non fare nessuna uscita dalla volontà di Dio. Angelo mio custode, fammi da guardia, difendimi, aiutami in tutto, affinché il mio Eden cresca fiorito e sia il richiamo di tutto il mondo nella volontà di Dio. Corte celeste, vieni in mio aiuto ed io ti prometto di vivere sempre nella volontà divina. Consacrazione a Gesù Re dell'universo. O Gesù, Re dei Re, Dio di bontà, Dio di amore e di misericordia, io adoro, amo, ringrazio, glorifico la tua volontà santissima, che di tutto è vita e mette in moto ogni tuo attributo, la tua onnipotenza, la tua sapienza, la tua bontà, il tuo amore. Ovunque ed in ogni tempo, sia nella gioia che nel dolore, la tua S.S. volontà, il tuo divino amore, siano la stella che rimiro, la legge che mi governa, l'aria che respiro, il palpito del mio cuore, la sostanza, o meglio la vita della mia vita. A tal fine unisco tutte le mie preghiere ed azioni, le tue, tutta la mia vita alla tua, nonché a quella della Vergine S.S. Madre tua e madre mia, di San Giuseppe e di tutti gli eletti che sono stati, sono e saranno, con tutto il bene passato e futuro che è reale e possibile in cielo e in terra. Io consacro e dono tutto me stesso. Quanto ho, quanto sono, quanto mi appartiene, quanti mi sono cari, la mia vita, la mia morte, la mia eternità, tutto ciò che hai creato e creerai, al tuo supremo volere, al tuo infinito amore e ti prego, o sapienza infinita, di scrivermi a caratteri indelebili nel tuo adorabile cuore, quel figlio ardente e zelante, del tuo divino volere e del puro amore tuo. Io compio questa offerta e donazione nella potenza del Padre, nella sapienza del Figlio, nella virtù dello Spirito Santo, in nome mio ed in nome di tutte le creature e per ottenere l'avvento e l'espansione della divina volontà e del divino tuo amore sulla terra. De. Fa. O mio Signore, che da ogni labbro e da ogni cuore, come da sacro altare, si innalzi continuamente al cielo la preghiera che tu stesso per primo rivolgesti al Padre: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Così sia. Insieme a te, Gesù, adoro l'Eterna Maestà. Gesù, amor mio, fregiami di te, vestimi di te e così, immedesimato con la tua umanità, io posso venire insieme con te innanzi alla Maestà dell'Eterno. Sperduto innanzi a questa Maestà che è luce inaccessibile, immensa, variata, di bellezza incomprensibile, da cui tutto dipende, adoro insieme con te nell'immensità della tua volontà la potenza increata. Con te, pur se piccola creatura, io vengo ad adorare in modo divino, a nome di tutti i miei fratelli delle generazioni di tutti i secoli, colui che tutto ha creato e da cui tutte le cose dipendono. Adoro insieme a te, Gesù, perché voglio che queste adorazioni si moltiplichino per tutti e, mettendosi innanzi al trono dell'Eterno come a difesa per chi non vuole riconoscere l'Eterna Maestà anzi la insulta, corrano a bene di tutti per far conoscere a tutti l'unica Suprema Maestà. Confronta. Volume 12. Preghiera alla SS. Adi Dio. O eterna e inaccessibile a suprema del mio eterno amore. Prostrato innanzi a te. La tua immensità m'avvolge. Mi inabissa. Mi annienta. Ma mi innalza nel contempo fino al tuo trono e mi ridà la vita. Vita nuova. Immutabile e santa. La vita dello stesso volere del mio Gesù, nel cui centro trovo, come in un sol punto, passato, presente e futuro. Oh sì, trovo il supremo volere creante, il quale in tutte le cose che crea mi manda amore, oceani di immensità di amore. Però aspetta il ricambio di ogni creatura. Ed io, a nome di tutta l'umana famiglia, dalla prima all'ultima creatura, prendo da questo imperscrutabile volere l'amore di ciascuna di esse. Ed entro in ogni atto creante, in ogni luccio di stelle, in ogni raggio di luce del sole, in ogni alito di vento, in ogni goccia di acqua, in ogni essere vegetale ed animale, e poi entro in ogni palpito di ciascun cuore, in ogni parola, passo, opera, pensiero, sguardo e, riempiendo tutto d'amore, mi porto innanzi alla Maestà Suprema, per darle il ricambio dell'amore d'ogni cosa creata. O amabile e potentissima, a immensa da cui tutto esce e niente sfugge, vengo a portare ai tuoi piedi santissimi l'amore di tutti. Vengo ad armonizzare insieme con l'amore creato. Ah sì, per tutto ti ricambio in amore, la mia voce armonizzi su tutto ed in tutto. E facendo eterna questa voce, perché si moltiplichi in ogni istante sino all'infinito, ti dirò sempre, ti amo, ti amo, ti amo, sarò il suggello dell'amore creato, per cui non ci sarà cosa ho detto che non suggellerò col mio amore. O Gesù, seguendo il tuo volere eterno, Entro nel primo istante del tuo concepimento. In ogni tuo palpito, pensiero e respiro. Ed in ogni tuo moto, preghiera e pena che soffristi nel seno materno. In ogni tuo gemito, lacrima e stento della tua infanzia. In ogni passo, opera e parola della tua vita mortale, entro nella tua ASS. Nel mare immenso della tua passione, in ogni goccia del tuo sangue, in ogni piaga, in ogni insulto e disprezzo, in ogni spina, schiaffo e sputo, mi immedesimo nelle pene che soffristi sulla croce, nella sete ardente, nell'amarezza del fiele, nelle tue riparazioni e soddisfazioni, fin nell'ultimo tuo anelito, ed insieme con tutte le generazioni ed a nome di tutte, entro nella interminabile tua in cui tutti sono compresi. E così in modo divino, vengo a darti il ricambio d'amore. Riparazione per riparazione, mi sprofondo nell'abisso del tuo volere ed adoro ogni goccia del tuo sangue. Bacio ogni piaga. Ti benedico. Lodo e ringrazio per ogni tuo atto. Nel tuo volere mi hai dato tutto ed io nel tuo volere ti ricambio per tutto e per tutti. Amar mio, uniamo insieme il fiat creante, il fiat redimente, ed il mio fiat nel tuo volere. Facciamone uno solo, l'uno scompaia nell'altro, affinché tu abbia amore completo, gloria perpetua, adorazione divina, benedizioni e lodi eterne della creazione e del tuo fiat voluntas tua come in cielo così in terra. Celeste Regina, Mamma Divina, tu, che avesti il primato nel divin volere, stendi il tuo manto azzurro e, nell'immensità del volere eterno, ravvolgi tutte le creature. Suggella, col suggello del divin volere la loro fronte, affinché tutte vivano della vita della divina volontà sulla terra, per poter passare nel tuo grembo materno a vivere della divina in cielo. Così sia. Atto di riparazione completo nel divino volere. Mio dolce Gesù, entro nel tuo volere e mi prostro ai piedi della Maestà Suprema. Ed a nome dell'umana famiglia, passata, presente e futura, vengo nell'immensità di questo divin volere, in cui tutte le generazioni sono tutte in atto come se fosse un punto solo. Ed a nome di tutti vengo ad adorarti ed a prestarti gli omaggi che come a nostro Creatore tutti dobbiamo. Vengo a riconoscerti a nome di tutti Creatore di tutte le cose, e per tutti e per ciascuna cosa creata. Vengo ad amarti, a lodarti e ringraziarti. Nella santità del tuo volere vengo a sostituirmi per tutti e per ciascuna creatura ed anche per le stesse anime perdute per darti riparazione delle colpe per cui si perdettero. Per tutti voglio ripararti. E per ciascuna offesa voglio supplire. Amarti per tutti e moltiplicandomi nel tuo santo volere in ciascuna creatura. Voglio assorbirle tutte in me. Per darti a nome di tutte, come se fosse una sola, non solo amore, ma amore divino, gloria, riparazione, ringraziamento in modo divino. Nel tuo volere, amor mio, voglio sorgolare in ciascun pensiero di creatura, in ciascun sguardo, in ciascuna parola.